Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Il dittatore di Gianni Rodari. Un punto piccoletto, superbo e racondo, dopo di me gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono, ma che grilli ha per capo, si crede un punto e basta, e non è che un punto a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, in onda alle ore 14 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, come in questo momento è disponibile a partire da lunedì sul nostro sito www.radiovanloon.info. Abbiamo iniziato la puntata in una maniera strana. Prima dei miei saluti abbiamo sentito una voce che ci ha letto un pezzo e per chi l'ha riconosciuto è un pezzo di Gianni Rodari. Ci è piaciuto iniziare con una situazione ribaltando un po' la situazione solita, perché forse può essere una bella strada per raccontare questo personaggio di cui molto si è detto nell'arco di quest'anno. Ricordiamo, quest'anno è stato l'anno rodariano, un anno che è iniziato con l'anniversario della nascita, il 100° anniversario, e si chiude proprio in questi giorni con il 40° anniversario della morte dello scrittore per l'infanzia per eccellenza, che è caduta nel 1980. È stato un anno importante perché, con pandemia permettendo, ci siamo riconfrontati nuovamente con le parole di questo scrittore per l'infanzia. C'è stata tutta una questione interessante sul fatto che Gianni Rodari non sia stato considerato per lungo tempo, e forse non è considerato nemmeno ad oggi, uno scrittore della letteratura italiana, anche se in un certo senso la pubblicazione dell'opera completa nella collana dei Meridiani, che è il riconoscimento dello statuto di uno scrittore e di una scrittrice in Italia, è arrivato anche quello con una bellissima edizione. Perché molti dicevano è stato confinato solo ad essere un autore per l'infanzia. Per noi quel solo non esiste, nel senso che uno scrittore che ha dedicato tutta la sua vita al racconto e al dialogo con l'infanzia, secondo noi, ha già una statura molto alta. In questa puntata cercheremo un po' di entrare in vari aspetti di quest'anno rodariano e di cercare di indagare alcuni aspetti che secondo noi sono mancati in questo tipo di percorso. Per accompagnare questo racconto però ci vuole un po' di musica. Andiamo in musica per l'appunto e ritorniamo fra poco. A garantire il giusto risultato, quasi adatti a star seduti dentro un'auto accessoriata standard, quasi adatti a scuole con i croce fissi ai muri, quasi adatti a discoteche come gabbie, quasi adatti a sentimenti. Siete sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Questa è Vallun. Io sono Jacopo Frey e sto parlando dell'anno rodariano, di Gianni Rodari. Gianni Rodari chi è? Abbiamo detto che è stato uno scrittore per l'infanzia. Chiunque di noi abbia frequentato le scuole elementari qua in Italia lo sa benissimo. Però Gianni Rodari è stato anche qualcosa in più. È stato un intellettuale che ha preso posizione all'interno della vita politica italiana. È stato un intellettuale militante. È stato un intellettuale comunista, è stato uno scrittore comunista che ha sempre avuto ben chiaro quello che è stato il suo percorso, ma questo aspetto in parte è mancato. Questo è uno degli aspetti che sono venuti meno in quest'anno rodariano, cioè il fatto di contestualizzare un autore nel periodo e di contestualizzare l'opera di un autore all'interno di quella che è la sua riflessione più completa. E abbiamo pensato a questa cosa partendo da un articolo dell'Avvenire del 29 settembre 2020 in cui Simone Paliaga, con il titolo Gianni Rodari, favole al telefono rosso, sembrava tornato a un clima di guerra fredda, un quotidiano cattolico che critica un autore per l'infanzia di simpatie comuniste. In realtà l'articolo era più, aveva toni meno accesi, non aveva toni da 48, però metteva in luce il fatto che Gianni Rodari avesse fatto molta fortuna in Unione Sovietica e continua a far molta fortuna in Russia, e puntava il dito sul fatto che Gianni Rodari abbia ritenuto per tutta la sua vita che il suo reale committente fosse il movimento operaio, non tanto la sua casa editrice. E questo è interessante, molto interessante, perché ci racconta di un autore che è complesso. Un'autrice oggi che ha parlato di Gianni Rodari è Vanessa Roghi, ed è riuscita a contestualizzare questo autore. Il suo libro Lezioni di Fantastica, Storia di Gianni Rodari, edito dalla Terza proprio in occasione dell'anniversario, è un libro che è molto interessante, perché Vanessa Roghi ha il merito di incastonare Gianni Rodari nel contesto che l'ha prodotto, dandogli però gli elementi per farlo respirare come autore. Noi, con la nostra trasmissione di Storiche e Storici, cerchiamo di entrare nel discorso, per cui adesso diamo la parola a uno storico, Marco Fincardi, che ci è venuto a trovare, diciamo, a cui chiediamo di entrare nel discorso di Gianni Rodari, intellettuale comunista. Qual è stato il rapporto negli anni fra Gianni Rodari e il Partito Comunista, anche alla luce del fatto che lui è entrato nel partito negli anni del duro scontro del dopoguerra e vi è rimasto sostanzialmente fino alla fine della sua vita? Sì, beh, inizialmente lui ha lavorato direttamente per il Partito Comunista, prima per le edizioni lombarde dell'Unità, e poi dopo nel 49 si è lanciato in questa avventura di diventare una voce dei ragazzi, e dirigendo questo giornale innovativo, assolutamente nuovo nella storia della sinistra italiana, che è stato il pioniere. Ecco, quindi lui ha lavorato fino alla fine degli anni 60 praticamente a questa esperienza, è diventato lo scrittore, molte delle cose che ancora oggi noi leggiamo sono state prodotte in quel periodo, è una parte molto consistente di filastrocche, di poesie, di racconti, di storie, non solo Cipollino e tutti gli altri autori verdure e gli altri personaggi verdure, ma c'è tutta una produzione intensissima di quel periodo dove lui esalta l'immagine del lavoro, dove lui è proprio un così, cerca di tradurre in un linguaggio semplice, anche per immagini, sia parole immagini, sia proprio appoggiandosi a dei validi disegnatori che lavorano al giornalino, o in generale anche a produrre il manuale del pioniere, a produrre varie pubblicazioni, e a produrre delle immagini semplici di ciò che può significare un discorso che poteva essere libertario. Non c'è magari nelle sue produzioni se vogliamo un racconto della lotta di classe, ma è un racconto dove, per dire, la parola comunismo non appare mai, dove non appaiono mai la falce e il martello, C'è l'esaltazione di tutte le figure del lavoro, della dignità del lavoro, dell'orgoglio di essere capaci in un mestiere. Ci sono tutti questi racconti che sono fortemente racconti di classe. Ecco, c'è meno l'ideologia, il che non toglie che Rodari un'ideologia sicuramente molto forte ce l'avesse. Ecco, poi dopo, dall'inizio degli anni 60, invece Rodari comincia a lavorare con diversi editori, ormai è un autore che è diventato molto famoso, piace, è molto efficace la sua comunicazione e chiaramente è alternativa, perché lui negli anni 50 è stato indicato dagli ambienti cattolici come il diavolo, e quindi così resta forte il suo rapporto con il Partito Comunista, ma è un rapporto che non gli impedisce poi di lavorare, che so, all'Enciclopedia dei 15 o a varie altre pubblicazioni che hanno una così non hanno a che fare con il Partito Comunista, ecco, negli anni, oppure lavora con Einaudi, a quelle che diventano le sue opere di metodo, di riflessione sulla fantastica, che sono così legate ormai a un ambiente di sinistra dove lui è molto popolare, ma dove non c'è più la dipendenza da una committenza diretta del partito come poteva esserci per il giornalino del Pioniere, in generale per le iniziative dell'associazione Pionieri. Ecco, guarda Marco, volevo chiederti proprio di un breve focus sull'esperienza del Pioniere e dell'associazione Pionieri. Si è riparlato nell'arco di quest'anno, poco purtroppo, di un testo molto interessante che è il manuale del Pioniere, quindi un testo che lui scrive per gli organizzatori e per quelli che devono essere gli educatori e che sono stati anche gli educatori dell'organizzazione giovanile della sinistra. È un testo che varrebbe la pena di essere recuperato. Perché, secondo te? Ma il manuale del Pioniere è un straordinario racconto di come si potesse fare l'animazione culturale nel gruppo, proprio far crescere dei gruppi di ragazzi, tutto finalizzato sempre a un discorso di emancipazione sociale, quindi di non sentirsi subalterni agli altri. C'è uno sviluppo di quello che può essere così, anche il discorso di base dello scautismo, che è quello che ispira inizialmente questi autori, che Rodari, Pagliarini, tutto questo gruppo, Argilli, la Rinaldi, è tutta gente che vuole superare il discorso dello scautismo, ma di fatto parte dall'esperienza dello scautismo, ci mette dentro quello che è l'esperienza dei falchi rossi nell'Europa centro-settentrionale, dei falchi rossi legati alla tradizione socialista, e poi anche dei pionieri sovietici e dell'Europa dell'Est. Ma c'è un elaborare un discorso originalissimo che cerca proprio di valorizzare quello che i ragazzi possono fare, possono imparare, insegnargli a giocare insieme, a collaborare insieme, andare alla scoperta del mondo, sia del mondo della cultura, sia del mondo del lavoro, di farli entrare nei mestieri dei loro padri, dei loro nonni, delle loro madri. C'è un fare acquisire ai ragazzi una coscienza di quello che è il loro essere sociale, proprio per toglierli dallo spontaneismo della strada, dove potevano fare i monelli, i maragli, e invece gli si insegna a fare dei giochi costruttivi, a collaborare, a fare delle cose che poi possono avere uno sbocco nell'emancipazione sociale. Ecco, e questa è stata un'esperienza che è andata avanti per molti anni e ha avuto proprio nella formazione dei quadri questo strumento che è il manuale del Pioniere, che è stato così, ha una ricchezza straordinaria di proposte di quello che può essere il lavorare insieme ai ragazzi, inventandosi di tutto, dal teatro dei burattini alle commedie, anche a proiezioni quasi cinematografiche, a visite guidate, organizzate, a giochi di ogni tipo, allo sport. Ecco, c'è un voler riempire l'attività dei ragazzi di non tanto di cose che vengono proposte dall'alto, ma proprio di cose che vengono conquistate, quindi dove i ragazzi imparano a fare delle cose che sono in grado di cambiare i loro giochi e quindi in proiezione li si rende capaci anche di cambiare la loro vita. A quei nemici così pochini, poverini, che non basterebbero nemmeno a popolare un villaggetto di montagna, scriviamo una lettera e non se ne parli più. Eccola. Cari nemici, vi chiamiamo cari perché non si deve volere male a nessuno. Avete mai letto Il Pioniere? Ma tutto, dalla prima all'ultima pagina? Siamo sicuri che non lo avete mai letto e forse per questo pensate che Il Pioniere è un giornale scritto per insegnare ai bambini a strappare le zampine ai grilli o ad attaccare barattoli di conserva alla coda dei gatti o a prendere a sassate le lampadine. Per dinci e quindici, direbbe Bambolo, non fatevi venire tanta rabbia, altrimenti vi ammalate, diventate verdi, gialli e dovete consumare i vostri risparmi in medicine. Leggete Il Pioniere. Se qualcosa non vi piace, ditecelo e vi ringrazieremo dei vostri consigli. Ma lasciate stare i bambini. Se volete proibire loro di qualcosa, se proprio non potete stare senza proibire niente, allora proibite ai bambini di avere fame. Ce ne sono che non mangiano abbastanza. Proibite loro di andare scalzi. Ce ne sono tanti che non vanno a scuola perché non hanno scarpe. Proibite ai bambini di essere poveri e fateli diventare tutti ricchi e felici. La mia vita senza te non è così diversa. Faccio tutto un po' più piano. È un tempo per me. La mia vita senza te. Prima della canzone abbiamo parlato con Marco Fincardi, storico dell'Università di Venezia, che ci ha raccontato il percorso fatto da Gianni Rodari all'interno della galassia dell'associazionismo giovanile della sinistra, l'Associazione Pionieri Italiani, l'esperienza della rivista Il Pioniere, un bacino di letture, di pedagogia, di fumetto molto molto ricche. Però abbiamo cercato di capire anche come mai